Thank you.

va più sta con la bonella Zitto, cugino, stia serrato. Per tre anni imprigionato. Ma che questo mi chiamare, ma che questo mi chiamare. La bandiera, la bandiera, la bandiera. La bandiera, la bandiera, la bandiera. La bandiera, la bandiera. Io sono cogia, io sono cogia. Io sono cogia. Trasformiamoci in quel signor bruschino che ha da sposar Sofia. Una lettera? Sì, sappia Marianna il gran progetto. Orsù, spirito e cuore, entriamo in colpo e ci protegga amore. Ho trovato poi l'intoppo, ed Non si veda. Ho ricevuto una lettera per voi. Chi mi scrive? Leggiam. Bruschino il padre. Amico mio, mi valgo d'altra mano a cagione d'un improvviso piccolo accesso di chiragra. Di gotta. Ma vi scrivo indispensabilmente. Mio figlio Bruschino, invece di recarsi da voi, batte la campagna e perde poco notevolmente il suo tempo. Io vi scongiuro di farlo arrestare dai vostri servitori e tenerlo custodito presso di voi. E siccome egli non è conosciuto di persona da chi che sia, eccovi in due esemplari i suoi connotati. Vi torno a raccomandare la sollecitudine. E mi segno tutto vostro. Bruschino il padre. O gioventù imprudente, o la sentite? Per Bacco i servitori mi conducono un uomo che fosse lui. Volete il cielo? Lasciatemi, che violenza, signore! Una cosa alla volta. Siete Bruschino il figlio? Io? Non serve nascondersi. Lo sono. A vostro padre son giunti i vostri degni portamenti e con questa sua lettera m'ordinò d'arrestarvi. E voi di grazia chi siete? Io son Gaudenzio Strappapuppole. Oh Dio, quello... Ah, che degno non sono del vostro bel... Perdono. Giuoco, amiche! Ah, pentitione venia, ragion per cui trovato fui qui. Le ragione. E al padre mio scriveva implorando perdono. Legge. E forse la lettera che il giovane Bruschino a lui mandò per via del locandiere. Si bene che pentito. Entrate. Posso sperare? Ah, che non oso! Mi commuove! Via, via! Chissà! Oh, basta per adesso!

non temete, non temete, fate scelto. Caro padre, le perdono dell'error pentito io sono. Chi è costui? Chi è costui? È vostro figlio? Sono vostro figlio! Chi è costui? Bruschino! Un corno! Un corno! Padre, io destino! Ehi, sergiale! Arrosisco! Pover'uo, lo combatisco! Ehi! Ebbene, è caldo! Io non vivo in vita mia! Io non so chi diavolo sia! La capite, sì o no? Io non so chi diavolo sia! La capite, sì o no? Rinegate il vostro figlio per un solido puntiglio, a che poi l'avviso nostro cui natura già in orror, cui natura già in orror, cui natura già in orror. Cosa andate naturando? Cosa andate barbottando? Cosa andate barbottando? Voi due pazzi, mi sembrate, voi due pazzi, mi sembrate, e i pazzi, con voi non fa. Ah, fermate! Ah, padre, figlio, per grazia consolare. Per grazia consolarmi. Padre, figlio, diavolo, diavolo, diavolo, su, spiegitela e buonora, su, spiegitela e buonora. E lasciatemi parola, e perché io voglio dire, lasciatemi parola. Peccato che non sia, è della ragione, è tornata la ragione. Voglio dare commissario, voglio dare da commissario, voglio dare snaturato del signor Bruschino, viemmelo a dir. Vi servirò, appuntino.

capricore. Io con cui mi mangerei di belle le convulsioni, salta il ballo adesso qua. Sono qua di convulsione. Salto e ballo adesso qua. Salto e ballo adesso qua. Dico qui mi mangerei di belle le convulsioni. Salto e ballo adesso qua. Riesca a pagarmi 200 franchi. Un'altra? Io? Siete matto? Me li deve suo figlio. Il figlio mio? Voi siete fortunato. Presto, andate, correte. Egli è di là. Come di là? Se nella mia locanda sequestrato. Sequestrato? Or non diceste cosa? Che quel tale era mio figlio. Che era Bruschino. Qual Bruschino? Ha detto che cugino del di lei figlio e che Bruschino ha nome. E adesso è mio figlio. Sta nella mia locanda. E il cugino? M'ha imposto che il tenga rinserrato. Briccone! Capisco. Ehi, venite zitto. Ah, cavalone. Or sì, che tu sei fritto. Caro signor tutore, vieni a tempo. Convieni per buon ordine ch'io scrutini la figlia, onde sentire come la pensa circa il matrimonio. Siedi in collera, amico. Oh, cosa dici? Ti vuo tutto il mio bene. Ma

buon segno, buon segno. Arriva anche a me, arriva anche a me. Don Pavito, poi, nel seno con vostro. Signore, non posso star qui, non momento, non posso star qui, ma star qui. Buon segno, buon segno. Arriva anche a me, arriva, arriva anche a me. Poi nasce un ardore, ardente, ardente sono io. La prova nascere, son tutta desio. Poi nasce un ardore, ardente son io, la brava m'accende, son tutta desio, son tutta desio, son tutta desio. Ma della prudenza, ma della prudenza che amor sarà or. Intor di signore al caso mi trovo, lo vedo, ma vien la prudenza. Intor di signore al caso mi trovo, lo vedo, ma vien la prudenza. Consiglio, ricordo. in me son ritornato, in me son ritornato. Io mi reco un tigliato, ma vi prego, vi prego, vi prego per donar. Sul figlio se insuigete, venga, sì, venga, oh Dio. Correte, correte, via Bruschino, oh padre, ma figlio, padre, figlio, Sofia, Sofia. Facciamoli contenti, io prima penso e grido, son figli di Calibro. E poi l'amore, oh paro si sbattosso, sposatevi sul patto, sposatevi sul patto, tardare più non posso, non tardare più non posso, più non posso, più non posso, passare più a te, passare più a te, più non so parlare. Bagatelle, e come, e fine. senator. Capì, del mio nemico, del mio nemico. Padre mio. No, no, vergognoso. Per un solido figlio rinnegato adesso qui. Cospettor, cospettor, il padre estinto, è tornata la ragione, poverino, la compassione. Avete già sposato? Disgraziati! Padre amato, perdono! Caudendo l'amore, intendrini fai ciò! 8.6兆赫，欢迎收听。感受音乐与歌声的交响，聆听舞蹈与旋律的对话。请进北京音乐广播古典音乐频道，有线调频98.6兆赫，歌舞剧场，每天10点、22点播出。 Once upon a dream。 刚才我们听到的是罗西尼的歌剧《布鲁斯·基诺先生》中的经典唱段，接下来为您带来的是马斯内的歌剧《纳瓦拉人》中的经典唱段。由玛丽莲·霍恩、多明戈等演唱，亨利·路易斯指挥伦敦交响乐团演奏。 so acute scerne sia. Clamor Je donne à mon brave la fille. puros. Amore puros, ma possibile? Je suis riso héros. poter, la saurai peut-être. C'est vrai, je n'y suis rien. Il est maintenant officier. Jamais il ne m'en parviendra. Il n'est plus qu'au parvenir, sale, désespéré. Général, qu'est-ce encore? Les gardistes ont dit que le menace est notre corps. Le major Ortega vient d'être tué. Ortega, mon ami! Vita Zuccaraga, miserable bandit, innamorato, bon pas, le soldat qui dans la bataille atteindrait sa Zuccaraga, je lui donnerai avec joie une fortune. Avec la croix. Une fortune, 2000 euros, 2000 di pain. La dot, para qui, notre amour, et j'hésiterai, non! Ne m'atteindra jamais. Moi! Qui parle? Une femme? Aux barricades, beau Rizzo, remplacez le commandant Andrés, beau lieutenant Ferre, respectez les grands gardes, tenez-vous prêts, messieurs, vive notre pays! Vive notre thank you. hélas au fini. Oui, je m'en défie, Vanita. À l'instant des blessés qu'on ramenait au pont, on dit qu'ils avaient vu une femme aux yeux s'avancer vers les avant-postes des soldats de Carlos. Se dire à ces soldats, vers Zoukarag comme même, je vais lui parler dès ce soir. C'était ton Anita. Une espionne, un songe. Une espionne. Pour moi, Zoukarraga passe pour très galant. Oh, depuis, misère, détail, camarade, pour la vie. Tout comme je vous vois, impossible. Les femmes prenaient comme on prend les fleurs. Espionne ou misérable, je le saurai, je vais. À la qui? Laissez-moi. Oh, senza ti compagnie. Ci provi, ci fa che la prima. Ma la rese ti va. Ci ne va pa. Le patte ti conclui. J'ai demandé le chef. Alors, il m'interroge, face à face. J'avais mon couteau sur mon châle. Comme on dit ça, je l'ai frappé, ainsi, voilà. Frappé. Sous-titrage Société Radio-Canada.